great beats, beats, beats, beats. Sotto casa, sopra il cemento con le scarpe bianche. Oh shit, nascendo una grossa mia madre anche. Sogna come tutti noi di allargare il target. Tipo rapinare banche, perché su fai davvero le gambe stanche. Dammi i miei soldi, perché sulle rime che ci prendo la stecca. Si fumo OG, se senti la voce gratta c'ho la gola secca. Beviamo champagne nella bottiglia, per questo si macchia la tuta. Quando è nuda mi piace se aggiufra, che davanti alla faccia ho la nuca. No, io non finisco, se no questi dicono che non c'ho voglia. Metto tutti questi rapper che si la moglia, tipo sanatoria. Non li faccio nascere, perché costruisco una DeLorean. Se calo sul palco con M e con Flavio, fa paura tipo quattro Goya. Siamo in Savoia della paranoia. Giro una canna, pare una sequoia. Sono ancora quello che alza la barra più in alto. Frate sto accendo, tu non spacchi manco se rapi la barra di un altro. Con la base faccio come con la palla Ronaldo. Faccio questo finché non mi faccio la Lambo. Alzo il vetro mentre lei mi slaccia la Lambo. Non facessi questo, giuro morirei. 24-7, 0 holidays. Suono con i miei. Suono con i miei. Non facessi questo, giuro morirei. 24-7, 0 holidays. Suono con i miei. Sono a casa, baby, back up. Scarpe bianche, base, Air Force. Tante barre grasse, iPhone, canne, casse, laptop. Raptop, dal 2006 con dreadlock. Svenuto per terra tipo Hancock. Sono ancora in guerra, sono un black bloc. Vietcong. Non lo voglio il cielo, dato che chi ti invidia pensa beato te. Lo saluto, sì, dalla top 10. Mangio camembert, bevo cabernet. Macchio questi re perché sono macchiette con lo chanteclair. Nonostante beh, voglio bene a tutti. Sento pensi brutti, penso ma de che? Dammi consigli, sì, fammi la predica. Che me la fumo girando la delica. Sono tuo padre, mio odio e mi copi. Tranquillo è una cosa congenita. Serve carattere, scrivo in elvetica. Siamo una setta segreta ed eretica. Stappa la vodka, siamo tanta roba. La cazzo di armata sovietica. Aumento l'alimentazione, ti va fuoco l'alimentatore. Pure il condominio, quando me la scopo forte. Più sono due tesi come il posino. Lei che c'è sta rota, io la rotino. Conto il grano, tasso a dieta, mangio troppo sano. Nella scena sono l'ortolano. La zucchina come Rocco Tano. Non facessi questo, giuro morirei. 24-7, 0 holidays. Suono con i miei. Suono con i miei. Non facessi questo, giuro morirei. 24-7, 0 holidays. Suono con i miei. Siamo Tony Kane.